24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Innocente in mezzo alla gente, la felicità, e restare vicini come bambini, la felicità, felicità. Chiediamo alla maggioranza di fermarsi. Noi faremo di tutto in nome di una scelta morale, di convinzione e responsabilità politica per rallentare questo percorso verso il disastro. Felicità, felicità. Senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che fa. Al Nazareno gli ci vuole 3 giorni per risorgere, al patto sono bastati 12 ore. Ma questo è il sistema per finirsi di rovinare. Il mondo è fatto così. Il mondo è fatto così. A Renzi glielo dico da amico di fare i cazzi di tutti gli italiani. Sono tornati al Banner Romina, ma che ci serve di più? Sono tornati al Banner Romina, tutto a posto, felicità, no? Come avete sentito in Parlamento, volano faldoni, risse, la Boldrini, vi espello! E poi c'è la saggezza di Razzi. Allora, togliamocelo subito dalle palle, avete visto Sanremo? 349-238-6666. Io sono incocciato in Sanremo solo in 5 minuti che però sono già della storia della TV. Tra poco vi racconteremo nella storia della TV il racconto di Conti. Racconto di Conti che ha invitato una famiglia, la famiglia con quanti figli avevano? 45, 54, 72, 19 figli, 16 figli, la famiglia con maggior numero di figli in Italia. È stato un momento di TV epocale. Tra poco, e quello mi è bastato. Poi ho visto un paio di canzoni, ho visto, com'è che si chiama, la Galiazzo, può essere quella che ha vinto anche X Factor, quella la roscia, non è la rossa vera, l'unica rossa che conta, ecco, non è l'unica. Dal 2015 Evviva le rosse torna, ma diventa Evviva la Paola, con Paola Saluzzi e Paola Saluzzi, special guest Paola Saluzzi e altri pittizi di cui non ce ne frega assolutamente nulla. Non è la rossa che conta, non è la rossa. Non è... Buongiorno. Buongiorno a Paola Saluzzi, se non l'avete capito il mercoledì c'è Paola Saluzzi. Ma questo... Paola Saluzzi! Ma questa è la mia iniezione di felicità, vicino Sanremo, cioè... Tu l'hai più visto? Più contenta di me chi potrebbe essere? Assolutamente sì, ne ho visto una parte, poi ho registrato, sì, rigorosamente, quindi andrò a rivedere. Perché quindi Sanremo, ti vedi Sanremo in replica? Voglio vedere che cosa è stato fatto, come è stato pensato. Sì. Mi ha fatto molta tenerezza Carlo Conti, che ha detto, qualche anno fa... a bordo di una 127, quindi ha citato, sì, insomma, una parte Arancio, ero arrivato fin qua per tentare di intervistare gli Spandau Ballet e questa volta ci riuscirò. Sono qui, sono qui con una bella limousine. Insomma, voglio dire, viva, è partito Sanremo, certo, è viva. Intanto Albano e Romina quantomeno sono due che sono riusciti a fare pace, invece vedo che in politica meno che no, volano no, faldoni, volano stracci. Ma guarda, è di una noia mortale questa cosa. Ma Razzi che ha cantato il rap in nome per conto della Corea del Nord? No, allora, cioè, ci hai detto una cosa parlare. Che adesso guardo subito Lorenzo Nespoli, che saluto in redazione. Lorenzo, c'è Razzi che ha cantato un rap per la Corea del Nord. Sul web. Ripeto, web, ripeto gli elementi da cercare. Razzi, Corea del Nord, rap, che è tutto dire. Corea del Nord, sì, sì, sì. Vabbè, non possiamo perdercelo. Saluto anche Carmelo Lauricella in regia. Lascio parti di me qui e apriamo il Parlamento. Che il nostro direttore c'è, ma adesso certo. Vado a prendere un caffè, quindi semmai ci vediamo. Arriva domani. Subito col caffè della Boschi, ovviamente. Col caffè della Boschi, che è oltre alla S e alla C c'è anche la S. Direttore, buongiorno. Luca Dini. Buongiorno. Eccoci qua, direttore. Hai visto Sanremo? Tutto. Mamma mia, con un tono, ma già le prime serate finiscono alle 2 di notte, oppure. No, è stato abbastanza, è stato più veloce del solito in realtà. È stato un bicchiere d'acqua, via. Alle no, 11. Il ritmo è stato migliore del solito. Alle 11 tutti a letto, il ritmo, beh, meno male. No, infatti questo, anch'io ho visto quei quarto d'ora, 20 minuti, e c'è da dire che sì, un cantante dietro l'altro, non si perdevano dietro il fronzolo. E Sanremo. Ma c'è poi stato questo. I comici era tutto più veloce, anche migliore. Ah, pessimi. Ce l'hai con i pessimi? Chi è che erano i comici? Sì. Siani uno era. Sì. Te lo faccio subito sentire. Allora, due battute, un paio di battute di Siani, visto che non ti sono piaciute, magari te le faccio risentire alle 6:37, magari le riapprezzi, le riapprezzi meglio. Siani. Ma quello, se ci stava Salvini qua a condurre il Festival di Sanremo, io e te non ci stavamo. A me non mi chiamavo perché sono napoletano. E a me? Tu sembri un immigrato, Carlo. Cioè, vabbè, ma Obama in confronto a te è una mozzarella di Mondragone. Sì, ora. Vabbè, la mozzarella di Mondragone. E poi che ha detto ancora. Allora devo dirti una cosa. Io ti ho visto da lontano, ma oggi è veramente esagerato. Cioè, se ti fai un'altra lampada. No, ma non è. E ti vede Salvini, ti chiedo permesso e soggiorno. Vabbè, mon basta. No, te lo voglio dire. Luca, non ti è piaciuto. Questo è stato il meglio, pare, le due battute. Sì. No, vabbè, voglio dire alcune cose buone, però insomma, nel complesso non hanno dato molto di più. Insomma, ho preferito le canzoni. Hai preferito le canzoni. Chi è che vincerà? Da quello che sento ieri sera, forse Neck. Neck, attenzione, abbiamo il vincitore di Sanremo in esclusiva, Paola Saluzzi, in esclusiva. Radio 24 al mercoledì, quindi potete fare. Ma se lo dice Luca Dini ci crediamo. Neck, la ma prossima. Ne abbiamo sentite su alcune, dai. La prossima copertina è pronta, Neck, vincitore di Sanremo. Vabbè, ma il momento migliore l'avete visto, la famiglia Anania. È stato un momento di TV straordinaria, perché arriva la famiglia Anania con i suoi 16 figli e a un certo punto Conti fa una serie di domande al padre e il padre, come dire, era monotematico nella risposta. Sentite un po'. Io ringrazio per l'accoglienza che ci avete fatto, ma questo applauso lo facciamo al Signore, perché questa è un'opera di Dio, non è opera umana. Questo lo fa solo il Signore, grazie allo Spirito Santo. E non è una super famiglia. No, noi siamo normalissimi. Quello che ci fa straordinaria è la presenza di Cristo nella nostra vita, che abbiamo tutti nel battesimo. Non Senti, è una novità. Un'altra curiosità. Io non entro mai nel merito delle persone, non faccio i conti in tasca a nessuno, ma non deve essere facile gestire una famiglia così numerosa. Semplice non è, ma c'è la provvidenza, grazie a Dio. A questo punto io ho detto, se la sente nominare ancora una volta, per me Carlo Conti tira un bestemmione in diretta. No, perché dai, la situazione sembrava paradossale, alla quindicesima volta in cui, con il massimo rispetto, ha nominato la provvidenza, lo Spirito Santo, c'era Conti che ha detto, vabbè, chi è il più piccolo, chi è il più grande, è passato un po'. Che dire, Paola, è stato un momento così, però divertente. Sì, divertente. Sì, insomma, 16 sono una bella truppa. È abbastanza. È un bel, certo che ci vuole un sostegno, un aiuto anche spirituale, è come dire, però la faccia di Carlo diceva molto. Era già lì. Insomma. A un certo punto il pubblico, hai sentito, direttore, il pubblico alla quindicesima volta è un po'. Era molto Rai 1, diciamo. Era abbastanza Rai 1, di 40 anni fa anche forse, ora è uno sì. Anche adesso. Vabbè, questo è stato secondo me il culmine. Diciamo. L'Angelus. È esattamente così, è esattamente così. Allora, cari amici, qua di politica sinceramente c'è poco da parlare. Credo che l'unica cosa interessante di politica, come ha detto Paola Saluzzi, potrebbe essere il rap di Razzi. Tu l'hai nominato, tu l'hai voluto. Che sta roba psichedelica. Questa crisi è una marea, su andiamo via in Corea. Ma quale dittatura, le vie senza spazzature. Chi disturba se ne pente, coreani brava gente. E come il mio cantone, non buttare mozzicone, che se Kim sta incazzato, fai le vie del cognato. Questo non l'ha fatto comunque. In Italia, altra gabella, Renzi appronta la vasella, pure a Silvio me lo porto se gli danno il passaporto. Abruzzo, terra mia, fate qualcosa e volo via, te lo dico da Antonio Razzi, fatti sempre i tuoi cazzi. Ma che orrore! No, vabbè, ma io, cioè, no, ma vabbè, ma Luca Dini, dai, ti prego, fai qualcosa, di quello che vuoi, hai 30 secondi tutti tuoi. No, purtroppo non fa ridere, però sono l'unica parte, cioè mi piacerebbe che lui cominciasse lui ad andare in Corea, insomma, ecco. Che ci rimanesse. Oh, ma cominciamo dalle cose che contano. Io mi vergogno veramente. Sì, ma anche per la prestazione canora, devo dire che, voglio dire, almeno... Ma quello in meno, diciamo che non ha cantato molto peggio di Romina, però... No, questa è veramente da twittare immediatamente, no. Ma perché? Come ha cantato Romina? Non l'ho vista. No, è che hanno fatto la reunion, ma non era completa. No, c'era solo Albano. Mancavano le corde vocali. Ma devo subito. Ma Paola Saluzzi, ma c'è un Luca Dini caustico come non so cosa. È scatenato oggi, scatenato. Gli do super deal sempre con tono british. Certo, ma certo. Voglio dire, sì, no, è terribile questa cosa di Razzi. Cioè, è terribile. Corea, ma sì. ma ci sei stato? Sì, purtroppo. Certo, stato. Certo che c'è stato, è di casa visti? Praticamente. Ma li hai visti? Ma sai che cosa vuol dire? Ma che ti devo dire? Ma guarda, quando la Zanzara gli dicevano dei campi di concentramento, diceva: ma no, sono campi di lavoro. Ma per favore, ma vai in Corea e restaci, detto alla romana, e vai e portaci uno studio. Per i prossimi 25 anni rimani lì e studi. Ma certo, ma è così. Però, che orrore! Vabbè, direi che è il meglio che ha prodotto la politica, il meglio si fa per dire, in questi giorni. A proposito di politica, però, sono tutti concentrati su un tema molto molto interessante, che è quello che riguarda la sicurezza di tutti noi, e mi permette subito di saltare a quello che peraltro ci aveva anticipato, cara Paola Saluzzi, il nostro direttore, che sarebbe uscito in questo numero di Vanity Fair, e cioè oggi decideranno di entrare in questo decreto, di mettere in questo decreto antiterrorismo il reato, diciamo così, di jihadismo, di andare a, di fare gli italiani che vanno a combattere in battaglie non loro, in guerre non loro. Perché lo dico? Caro direttore, eccoci qua, voi avete intervistato, avete scovato un italiano, si chiama Marcello, è partito da Senigallia per andare in Siria ed è un combattente contro lo Stato Islamico. Ecco, questo per dire, non so, dire contro lo Stato Islamico in qualche modo lo mette dalla parte dei buoni oppure non va bene comunque, Luca? Beh, oddio, sai, non mi permetto di dire che sia una scelta giusta. Certo, meglio contro che per, molto meglio. Meglio. Le sue motivazioni sono... questo ragazzo, insomma, ha 25 anni, lui dice è come la guerra in Spagna. Quando vedi una cosa così, come quando partivano da tutta Europa e da tutto il mondo per andare a fare la guerra. Sì, lui diceva: se tu sei contro il fascismo non puoi stare fermo. Io ho visto i bambini mutilati eccetera e ho deciso che se non accetto che succeda a casa mia non posso accettare che succedesse altrove. Lui era lì come attivista. sì, umanitarie, e poi quello che ha visto ha imbracciato il fucile, gli ha fatto prendere queste ma la storia è una storia incredibile, ripeto, non si può andare a capire appunto che cosa abbia spinto, però insomma è un tema che voglio approfondire. Dopo il traffico rientriamo su questo, perché da oggi, ripeto, sarà reato, da oggi, adesso se approvano il decreto antiterrorismo, non so se è oggi o domani il Consiglio dei Ministri, quindi lo approvano, è reato, quindi questo ragazzo peraltro si trova già in una situazione di reato, a meno le leggi non sono retrattive, adesso non lo so questo caso, comunque è lì a combattere con i curdi contro lo Stato Islamico. 24 mattino. Adesso in Parlamento ci abbiamo gli stabilizzatori, quelli che però ci faranno finire sugli scogli come c'è finito Schettino. Bisogna dargli la medaglia al benzinaio, la medaglia di oro, perché le leggi italiane non ci fanno niente a quella gente. Ciao, ti saluto, Mila, ciao. Milan, basta cannoli, ce ne hanno propinati per tanti anni, bisognerebbe darli tutti a Salvini, siccome gli piacciono. Teatrino di Berlusconi che fa l'opposizione è veramente l'ennesima presa in giro, non ha bisogno di intese con Renzi, sono già maturate, sono già attuate e Renzi le porta avanti, punto, punto. Ma Milan, la polemica sulla zona luci rosse a Roma per la prostituzione, ma scusa, ce ne sono già due di zone a luci rosse, una è Montecitorio, l'altra è Palazzo Madama, lì sono già. Vabbè, una rilettura, Paola Saluzzi, potresti proporla ai tuoi politici. Molto singolare. Sì. Vabbè, comunque parlavamo di questa storia, di questo ragazzo di Senigallia che viene intervistato da Vanity Fair lì a combattere contro l'ISIS. Paola Saluzzi, c'è un, come dire, un combattere tra i buoni o tra i cattivi? C'è. Beh, voglio dire, chi... Sì, ma non è una battaglia da sentire così nostra, come dice questo ragazzo a Vanity Fair, c'è una battaglia... Questo ragazzo fa un salto molto, molto lungo e molto difficile da fare, molto difficile da fare. Ha le sue motivazioni, vanno lette, a maggior ragione, e quindi lo dico, grazie a chi, come il direttore Dini, grazie a chi decide di intervistare, di mettere in luce storie come questa. Va detto che chi è partito 70 anni fa per andare a combattere contro il nazifascismo ed è magari partito da altre zone del mondo ha fatto la stessa cosa. Certo che il pericolo c'è a tutti gli effetti, perché poi si può cadere all'interno di strutture che combattono l'una cosa per poi finire dove. Ecco, sì. Questo va. No, questa infatti, è la domanda questo... che bisogna porsi. Sai, non hanno una divisa questi delinquenti schifosi che ammazzano i bambini, li massacrano, li torturano, ammazzano le persone, le ammazzano come abbiamo visto, perché questi sono il colmo del nazismo, dire nazismo 2.0 è troppo banale, ma questi non vanno combattuti, questi vanno rasati via dall'umanità, cioè gentaglia. Eccolo lì. Vabbè, comunque, ma cosa dice questo ragazzo, caro direttore? È stata una scelta sofferta, è stata una scelta così spontanea? Ma lui no, non, sì, spontanea, dice sostanzialmente, lui dice l'umanità non ha confini, io ho deciso di essere una persona che fa la sua parte, non potevo vedere queste cose e non fare niente, e se muoio non muoio per Coban, muoio per quello in cui credo. Lui si proclama proprio antifascista. Ma adesso cos'è? Sarebbe, entrerà, cioè diventerà reato, quindi voglio dire, viene preso, non può tornare in Italia, come penso funziona? Che sia l'ultimo dei suoi problemi in questo momento. Beh, questo certamente sì, però dovesse mai finire, insomma, o cambiare idea o voler tornare in Italia, non lo so, vedremo quando adesso metteranno questo reato. Che dobbiamo fare qua? Intanto no, ho dimenticato la copertina di Vanity Fair, invece è un qualcosa, c'è Cate Blanchett, ma soprattutto una domanda alla quale la nostra Paola Saluzzi potrà rispondere in maniera chiarissima, cioè perché una donna diventa cattiva? Questo no, vabbè, Cate Blanchett interpreta la matrigna in Cenerentola, ma tu ben sai, essendo tu Una donna cattiva? Esatto, no, potevamo rispondere a questa domanda, l'hai detto tu, io non volevo. Così l'hai detto io, può diventare cattiva. Perché cosa diventa cattiva una donna? Per amore? Vabbè, amore nel senso infranto. Ma è la cosa più stupida quella. Perché cosa diventi cattiva tu? Dai, facciamoci se limitano la libertà. Se calpestano la mia libertà, allora divento cattivissima. Cattivissima. E che fai quando diventi cattivissima? E che lo vengo a raccontare, sì. E così quelli poi studiano. E così prendono le contromisure. Le contromisure. Vabbè, comunque, Luca Dini. Allora, qua facciamo la radio anni 60. Cioè, Paola Saluzzi ha chiesto un rap e ha ottenuto un rap. Luca Dini ha chiesto di ascoltare la straordinaria, unica, inimitabile performance di Romina Power. Ecco. Come va? Come va? Tutto ok? E l'amore, sì, va bene, ci sarà un azzurro di intenso in cielo. Che faceva la valletta? Senti nell'aria c'è già un raggio di sole più caldo. Si sente, è Albano che canta. Come un sorriso Romina! Romina, dove sei? Ma non c'era? Grande, clamoroso scoop. Non si presenta a Sanremo, Romina Power. Luca, ma non... C'era lei, ma mancava un pezzo. Mancava un pezzo. Non si è portata le corde vocali, effettivamente. Ragazzi, però, neanche le altre volte, però, diciamo. Ma sei terribile! Sei terribile! Cosa ti ha fatto Romina Power? Niente, no, è andata straordinaria. Però, insomma, ecco. Vabbè, allora Paola Saluzzi ci rapperà gli ospiti di oggi alle 3 sulle note del più celebre Razzi Rap. Forza, di che cosa allora, ti occupi? Noi ci occupiamo di qualcosa che con rap non ha nulla a che spartire, vale a dire che cosa succederà fra Russia e Ucraina. E soprattutto ci occupiamo della politica interna e di quello che ha detto la Boschi, con la S e con la C. Ah. E cioè, si arriva a sabato con le riforme? Ha dato un conto alla rovescia non da poco. Ma la fate sentire la voce della Boschi? Certo che la facciamo sentire. Fa sentire e vedere. È bella e brava. Accidenti. Vabbè. Alle 3 allora, tutti su Sky. Ieri ho avuto un senatore di... dico sempre, Sky TG24 e Canale 27. Lei mi offre questa opportunità. La ringrazio. Ieri il senatore Divina, sì, e qualcuno molto gentilmente ha messo una specie non di rap ma di simile rap su, sì, Twitter, ha detto: ci sono 7 premi Oscar dell'economia che dicono quello che dice la Lega, io non ce l'ho fatto premi Oscar, sì, premi Oscar, ecco, premi, i premi Oscar. L'ho sentita anche ieri a quelli della Zanzara, Farabutti l'hanno rimandato in onda. E va bene. Premi Oscar, vi ringrazio e buona giornata. Viva i premi Oscar che stanno con il senatore Divina. Alla prossima. 1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Qui siamo alle 7:18 e voi che state facendo, cari ascoltatori, siete già in pista? Siete già in movimento oppure siete come al solito attardati, lenti, debosciati, dico io, amichevolmente, vogliatemi bene. Siamo qui, torneremo a parlare alle 8:15, ricordate la vicenda dei gettonopoli ad Agrigento, ci torneremo perché è decaduto il consiglio comunale, forse travolto dalla vergogna di questi gettoni nelle commissioni consigliari, avremo ospite il presidente decaduto evidentemente del consiglio comunale Carmelo Settembrino, consiglio comunale di Agrigento, avremo ospite anche un leghista che pensate va lì, è lì ad Agrigento a vivere, un deputato della Lega, da ottobre vive lì, si chiama Marco Marcolin e si candida a sindaco perché lì non c'è più il sindaco, è decaduta anche la giunta, era già decaduta e quindi si andrà a votare, così la rinascita di Agrigento di un leghista. Cercheremo di scoprire. Parleremo ancora della prostituzione all'Eur a Roma, avremo ospite l'assessore di Roma Alessandra Cattoi. a cercare di capire. Ma allora si fa questa zoning, questa cosa all'euro, oppure no? Perché le polemiche mi sa che fanno naufragare tutto. Comunque ne parleremo dalle 8:15, ora i giornali. Questo mercoledì 11 febbraio, intanto i titoli, il dossier Grecia è sempre in primo piano per il Sole 24 Ore, piano di Atene sul debito, Berlino nessuna proroga, è un po' la disfida tra Grecia, la Grecia che chiede 10 miliardi entro l'estate, signore e signori, 10 miliardi servono ad Atene, se no c'è l'insolvenza, e Berlino dice no, nessuna proroga. Teniamo duro. La Germania gela Atene, anche il Corriere della Sera apre così. Repubblica, Tsipras all'Unione Europea, dateci 6 mesi, il no di Berlino. Il Messaggero, no di Berlino, allarme Grecia. E per il Fatto Quotidiano, Tsipras, Podemos, Movimento 5 Stelle, il fronte antidebito. Mentre Libero ha un titolo che vedremo tra poco, il fisco setaccia i conti. Anche per la Stampa c'è, cioè, Grecia e Ucraina, trema l'Europa, ultime ore per fermare la crisi, si mettono insieme sia la Grecia, la crisi economica, e sia l'Ucraina, invece una crisi proprio bellica. Un'inchiesta fa tremare Renzi è invece il titolo di apertura del giornale, i furbetti delle banche, la Consob ha in mano la lista di chi avrebbe speculato sulla riforma delle popolari. Oggi se ne saprà di più con il presidente della Consob Vegas che parlerà alla Camera. Il giorno più lungo è il titolo del manifesto dedicato proprio all'Ucraina. Oggi c'è il vertice a Minsk, si spera decisivo per evitare un'escalation militare. La gelida strage pesa sull'Europa, invece il titolo di Avvenire e riguarda la strage di migranti, ennesima per la verità. Voglio però partire dagli annunci sul fisco. Beh, sul Sole 24 Ore trovate tutto, è l'apertura anche di Libero, e anche il Corriere della Sera dedica una pagina, pagina 9, sul fisco. Già temete la parola, Guarderà depositi e carte di credito. Leggo da Mario Sensini sul Corriere della Sera, la super banca dati sui rapporti finanziari dei contribuenti entra a pieno regime. Entro il 28 febbraio banche, intermediari, compagnie di assicurazioni dovranno trasmettere all'Agenzia delle Entrate tutti i dati su movimentazione di conti correnti, depositi, fondi pensione, derivati, carte di credito, sugli acquisti di gioielli, di preziosi, sugli accessi alle cassette di sicurezza relative al 2013 ed entro il 29 maggio i dati del 2014. Informazioni che si aggiungono già a quelle che risalgono al 2011 e al 2012, già a disposizione del fisco. Tutto confluirà nell'anagrafe dei rapporti finanziari per poter essere usato dagli ispettori del fisco sia per verificare posizioni individuali sia per elaborare liste selettive di contribuenti da sottoporre a controlli più approfonditi. Temete già quello che viene definito il grande fratello fiscale, cari italiani. L'Agenzia delle Entrate stilerà liste di contribuenti da controllare. Per Libero è una porcata retroattiva, così il fisco potrà setacciare i nostri conti correnti. Staremo a vedere. Di porcate invece se ne intende evidentemente Dominique Strauss-Kahn. Ah, quante pagine, è entrato nel vivo il processo, e Strauss-Kahn, che è accusato di prostituzione, favoreggiamento della prostituzione, sfruttamento della prostituzione in Francia, l'ex uomo forte del Fondo Monetario, beh, ha raccontato ancora in aula, in un confronto serrato con alcune delle escort delle orge, alcune pagine memorabili. Su tutte, non sapevo che fossero prostitute, ho orrore delle prostitute, se avessi saputo che erano pagate io mi sarei sottratto. Così Dominique Strauss-Kahn, che ancora di fronte ai giudici, magistrati allibiti, ma anche un po' incuriositi, diciamo, dai, pruriginosamente incuriositi, parliamoci chiaro, siamo tutti esseri umani, ha spiegato tutta la definizione di libertinaggio. A un certo punto dicono in Francia al tribunale, ha detto: devo proprio spiegarvi tutto, così Strauss-Kahn ai magistrati. Il magistrato, il giudice sgrana gli occhi, cade dalle nuvole, si informa sulle differenze tra libertinaggio, escort, prostitute, come se gli stessero parlando di sconosciute piante esotiche, racconta Stefano Montefiori sul Corriere. E sembra sinceramente allibito il giudice quando gli raccontano di una donna che di solito non si fa pagare, ma qualche volta sì, perché l'idea la eccita. Vabbè, in realtà poi il racconto delle escort sono racconti di rapporti brutali, rapporti contro natura, uso di vibratori, insomma, se volete leggere sui giornali c'è tutto, abbastanza, nei particolari. Era un carnaio, così dicono le escort, dicendo ero in lacrime, io piangevo e lui intanto mi possedeva, e Strauss-Kahn che dice non mi sono accorto delle lacrime, mi sarei fermato, e parla semplicemente di libertinaggio, di donne che erano a sua disposizione perché ho fascino. Sì, magari, non so, il fascino del potente, certo, c'è questo. Per il secolo XIX Strauss-Kahn era un invasato di sesso animale, così è stato definito da una delle escort che era lì e che dice: non volevo prendere soldi, ma poi ho pensato, non posso perderli questi soldi. Vabbè, comunque trovate tutto su Strauss-Kahn e le sue orge. Questo sui giornali. A proposito di migranti, c'è una storia. Beh, c'è Iena sulla Stampa che fa uno dei suoi graffi a pagina 3, che è questo. Il governo agli immigrati: fa freddo, restate a letto se ce l'avete. Beh, come sempre molto molto graffiante, appunto, Iena, pagina 3 della Stampa. Ma c'è anche un articolo su Libero che vince nettamente, l'articolo che oggi mi fa zare della giornata, l'articolo da tenere le mani strette sul volante se siete alla guida e poggiate tutti gli oggetti con cui potreste farvi male in questo momento. Franco Bechis racconta: così la Chiesa ha coperto clandestini e delinquenti. È una vicenda che riguarda una parrocchia di Roma, racconta il vice direttore di Libero. In una parrocchia di Roma, per anni, alcune onlus hanno consentito a uomini e donne senza fissa dimora di registrare una residenza, creando così migliaia di fantasmi a piede libero che in questo momento sono spariti agli occhi delle autorità italiane. Eccolo qui, Franco Bechis: qualcuna notizia di Naved Ahmed, sesso ignoto, nazionalità pakistana, data di nascita presunta 1 febbraio 86, o di Hamedullah Akbari, che se siamo certi sia una donna, afghana, data di nascita 14 marzo 89, o dell'albanese Arthur Bardi, classe 81, e di Xinchao Chen, donna cinese dell'87? A Roma se li sono persi, come altri 1119 stranieri che avevano domicilio in via Gigi Pizzirani 25 alla sede della Onlus Camminare Insieme presso la Caritas della parrocchia romana di Santa Maria Regina Mundi. La Onlus è chiusa, succede che le residenze sono la Onlus, succede che sono spariti 1119 persone. Dove sono? Boh, non si sa. Ecco, ma si tratta così l'immigrazione in Italia? Si gestisce così l'immigrazione in Italia? È arrivato l'arrotino. Alessandro Milan, l'arrotino dell'informazione. Arrota coltelli, forbici, forbicine, forbici da seta, coltelli da prosciutto. Donne, è arrivato l'arrotino e l'ombrellaio. Aggiustiamo gli ombrelli. È fantastico. L'ombrellaio, donne, ripariamo cucine a gas. Abbiamo i pezzi di ricambio per le cucine a gas. Se avete perdite di gas, noi le aggiustiamo. Se la cucina fa fumo, noi togliamo il fumo della vostra cucina a gas. Che è il genio che ha fatto questo messaggio, che ha rasserenato, ha riempito le vie per decenni delle nostre città, l'arrotino. Dove siete, arrotini? Siete scomparsi, arrotini. Arrotini, vorrei conoscere un Arrotino che ancora questo messaggio lo porta in giro per le città e fa questo, ripara ombrelli. Allora, la politica, ragazzi, c'è da mettersi le mani nei capelli, è una roba di una noia che esonda dai giornali, sconvolgente oggi, sconvolgente. Cosa succede? Sentite già l'inizio dell'articolo di Alberto D'Argenio su Repubblica: non è bastata la settimana di decantazione dopo l'elezione di Mattarella per rasserenare il clima politico. Allora a Montecitorio si votano le riforme costituzionali, Renzi ha voluto mettere una timeline per cui si deve votare fino alle 23 ogni giorno per votare entro sabato, approvare tutto. Forse, non so, forse sono arrabbiati perché si perdono Sanremo, non lo so. Comunque, contro questi tempi contingentati, ieri è successa una bagarre, quelli di SEL che hanno lanciato scagliando verso la presidenza, peraltro la Boldrini è di SEL, quindi è dello stesso partito, ha lanciato i faldoni, Rissa, Renzi che nel retroscena di Repubblica dice Berlusconi e Brunetta vorrebbero dimostrare che senza di loro la macchina si ferma, ma hanno capito male, avanti tutta e nel caso applicheremo la tecnica del canguro, e questa ormai l'avete capita, cioè quell'emendamento che ne cassa centinaia di altri o migliaia e si va subito al voto. C'è Berlusconi che dice: io ormai sulla rottura con Renzi ho messo la faccia, non posso tornare indietro. E c'è Verdini che dice: ormai siamo allo sbando, questo Forza Italia. Mentre per il Corriere della Sera, Monica Guerzoni, le opposizioni sono in rivolta, mentre Maria Teresa Meli racconta a pagina 13: più Berlusconi minaccia le elezioni, più crescono i nostri numeri al Senato. È matematico e lui è contento così. È Matteo Renzi che non arretra di un passo, dice: si va avanti, Berlusconi ora è in un vicolo cieco, i numeri ci sono, sulle riforme non arretriamo. Ecco, questa è la politica di oggi, non voglio dedicare mezzo secondo di più perché è di una noia veramente quasi indescrivibile. Comunque ci sono tante altre notizie interessanti dai giornali, a cominciare da che cosa scrive Il Giornale in prima pagina, poi l'articolo di Stefano Zurlo a pagina 18. Ci sarebbe un'inchiesta della Consob che avrebbe in mano, scrive Il Giornale, la lista dei fondi che avrebbero speculato qualche giorno prima della riforma delle banche popolari. Un'inchiesta fa tremare Renzi. Pagina 18 del Giornale, la pesca dai suoi primi frutti, la Consob ha tra le mani una lista con i nomi degli intermediari che si sarebbero mossi con straordinario tempismo, forse sul filo dell'insider trading, facendo incetta in anticipo di titoli delle banche popolari che Renzi ha trasformato in SPA per decreto legge. Se ne saprà di più quando oggi Giuseppe Vegas, cioè il presidente dell'organismo di vigilanza della borsa, la Consob, verrà ascoltato alla Camera. Ma è chiaro, dice il Giornale, che qualcosa di anomalo è avvenuto poco prima che il premier uscisse allo scoperto disegnando con un decreto la rivoluzione che dovrebbe cambiare il volto degli istituti di credito popolari. Vedremo oggi, questo però anticipa il Giornale. Ovviamente molti quotidiani invece si dedicano sulla vicenda Grecia. Sul dossier Grecia oggi è un giorno importante perché il ministro delle finanze greco Varoufakis, colui che per un sondaggio tedesco è un'icona del sesso per le donne tedesche, insomma, questo misto tra Checco Zalone, Bruce Willis e anche Aldo Baglio, quello di Aldo, Giovanni e Giacomo, effettivamente. Checco Zalone, Aldo e Bruce Willis, questo è Varoufakis. Ebbene, Tsipras ha un piano in quattro punti, racconta Il Sole 24 Ore. Il ministro Varoufakis è entrato nel vivo dell'operazione New Deal, come viene chiamato il piano ad Atene, il piano che porterà oggi all'Eurogruppo. Fonti governative hanno fornito alla stampa greca alcune anticipazioni del piano, che prevede ormai il famoso programma Ponte da collegarsi a settembre con un nuovo Greek Growth Compact, con i creditori che dovrebbero entrare in vigore nel mese di settembre, con le relative modifiche al mix di politiche di austerità perseguite dai governi precedenti. La proposta del governo sono quattro punti. Il primo: il 30% del memorandum, cioè il vecchio programma della Troica, è da rottamare e verrebbe sostituito con 10 nuove riforme da applicare con la collaborazione dell'Ocse. Il secondo punto abbassa l'ambizioso obiettivo di avanzo primario della Grecia dal 3% del PIL per quest'anno all'1,50%, una mossa che dà spazio di manovra per altre spese sociali. Poi, tre, le autorità greche vorrebbero ridurre il debito greco che viaggia a 315 miliardi di euro attraverso il famoso piano di swap con trasformazione di prestiti in bond. E poi... Quarto punto, l'esecutivo Tsipras chiede di poter intervenire per affrontare la crisi umanitaria con interventi a sostegno della popolazione, tipo l'aumento del salario minimo a 750 euro, concessione di elettricità e buoni pasto per gli indigenti, aumento del limite fiscale di esenzione a 12.000 euro, insomma altri interventi per far fronte alla situazione difficile. La borsa reagisce bene, Berlino subito dice no. Berlino, no, sono lì proprio austeri. La Grecia dice anche, c'è questa cifra, ci servirebbero 10 miliardi entro l'estate o c'è il crack. Berlino dice no. Tra l'altro Ettore Livini su Repubblica fa sapere che Tsipras ha fatto anche i conti della grande guerra, o meglio no, non della grande guerra, la seconda guerra mondiale. Ci dovete 160 miliardi voi di Berlino. Eccolo qui, Ettore Livini, pagina 6 e 7. Tutto calcolato, la questione del rimborso di 476 milioni di Reichsmark prelevati dai nazisti, dai forzieri della Banca di Grecia nel 1942. Oggi questa cifra vale 13 miliardi. Poi si aggiungano i risarcimenti per i familiari delle vittime, 58 miliardi, i danni alle infrastrutture. Insomma, si arriva a un totale, dice Tsipras, di 162 miliardi. Ho qui in tasca la richiesta di rimborso, dice il ministro degli esteri della Grecia, Kotsias, in visita a Berlino. Ma la Germania risponde, è tutto chiuso dal 1990. Ballano soldi, ballano miliardi, da una parte e dall'altra. E, chiaramente la situazione che preoccupa è la Grecia, come la situazione invece che preoccupa dal punto di vista diverso, dal punto di vista militare, è l'Ucraina. Ci sono tanti articoli su quello che succederà oggi a Minsk, dove c'è questo, si spera, vertice decisivo per frenare la guerra in Ucraina. Purtroppo la guerra già c'è, perché si muore con le bombe, anche ieri bombe dei filorussi sui civili e alcuni morti. A proposito di guerre, però, c'è un'altra notizia che riguarda i cosiddetti foreign fighters. Allora, ce l'aveva annunciato il ministro degli esteri Gentiloni, questa era la settimana di approvazione del decreto antiterrorismo, molto atteso dopo i fatti di Parigi. Ebbene, è in arrivo, è stato messo a punto, sarà reato andare a combattere all'estero. Questa è la prima e più importante novità. Entrano subito in vigore le misure studiate dal governo per fronteggiare l'offensiva jihadista. Il decreto messo a punto assegna ai funzionari dell'intelligence la possibilità di avere colloqui con i detenuti, soprattutto la possibilità di celare la propria identità in caso di testimonianza alla magistratura. E poi c'è la reclusione da 3 a 6 anni per chi si arruola in organizzazioni terroristiche, stessa pena per chi supporta i foreign fighters organizzando, finanziando, facendo propaganda di viaggi finalizzati alla realizzazione di attività terroristiche. Dunque, arruolarsi con i jihadisti diventa reato dai 3 ai 6 anni. E vedremo, ci sono anche degli italiani in questa situazione. Ma io non lo so se il nostro Mauro Meazza ha a disposizione questi 10 miliardi per Atene, se ne ha a disposizione un po' meno, se vuole lui pagare un po' dei debiti di guerra della Germania, se i debiti sono tutti pagati. Volano miliardi, caro Mauro, buongiorno. Caro Alessandro, buongiorno. Temevo il peggio quando hai cominciato a parlare del terrorismo jihadista, invece poi ti ringrazio di avermi ricollegato a questioni economiche o monetarie, anche perché poi sai che da domani avremo queste pagine del giornale della famiglia con l'economia spiegata in termini molto semplici. Cominciamo domani. Io adesso devo controllare un attimo, magari stamattina passo in banca per vedere se posso dare qualcosa anch'io, insomma, di questi 10 miliardi. Fai tu per me, perché io mi sono un po' stancato. Va bene, ecco, no, passo in banca anche perché sai che riparte l'anagrafe dei conti correnti, non certo. So se hai colto, lo spieghiamo sia in prima pagina e poi naturalmente nelle pagine di norme e tributi. Riparte perché si fa una, come dire, si rimette al passo con le spese da noi effettuate e il fisco potrà controllare, verificare appunto le nostre spese che confluiscono in questa grande anagrafe. Tutto il dettaglio naturalmente nelle pagine di norme e tributi, te l'abbiamo messo proprio in prima pagina così non mi ti sfugge. Facciamo per la verità l'ho letto in apertura di rassegna stampa, volevo dirti ma guarda che ma io probabilmente stavo lì a controllare online se c'avevo parte di questi 10 miliardi con il mio conto corrente online. Volevo dirti anche che sempre nella prima pagina di norme e tributi si parla di split payment, e sai che c'è sempre il minutino d'inglese, dobbiamo farlo. Ecco, split payment che tu puoi non sapere cos'è, ma ti assicuro che è una cosa che sta dando molto fastidio, riguarda l'IVA per i fornitori delle pubbliche amministrazioni. E lo split payment che è entrato a regime, è stato introdotto con la legge di stabilità e arriva a regime, e ne spieghiamo appunto i dettagli oggi su norme e tributi. Ti voglio dire, c'è qualche buona notizia qua e là, ripresa dei mutui che nell'erogazione dei mutui, più 32%, te lo diciamo nelle pagine di finanza e mercati, poi naturalmente tutti gli aiuti, ecco lì sì, se servono questi 10 miliardi, continuiamo a parlare di voluntary disclosure, scusami, questo dovevo dirlo nel minuto d'inglese prima, ma me ne sono scordato, quindi se vuoi riportare in regolarità fiscale i tuoi due urini o quello che insomma puoi avere nascosto al fisco, puoi farlo, ti spieghiamo come anche oggi su Sole 24 Ore. E non dimenticarti qui Radio Fisco, che abbiamo oggi 16 pagine dedicate ai nuovi principi OIC. 16 pagine dedicate ai nuovi principi OIC, organismo italiano di contabilità, grande restyling dell'estate scorsa, si usano già dai bilanci di quest'anno. Attenzione, ecco, lo stavi sottolineando. Eri distratto. Vabbè. Comunque questo e molto altro oggi sul Sole 24 Ore e domani naturalmente, ricordati, il giornale dell'economia. Perché Alessandro Milan è Alessandro Milan. Ah, ottimo, nella settimana di Sanremo ci sta. È andato un po' fuori ritmo e alla fine ha accelerato un po' la battuta di entrata al nostro ascoltatore, ma straordinario. Evviva Sanremo e Sanremo! E allora, avete visto Sanremo? Ditecelo al 349-238-6666, scrivetemelo, non mi interessa nulla se voi l'avete visto, no, ma voi scrivetemelo, facciamo questo esperimento sociale. Allora, oggi sia Libero che Il Giornale raccontano che torna uno dei vecchi scandali che negli anni 80 aveva visto proprio, anzi gli anni 90 aveva visto proprio Il Giornale in prima linea, l'Affittopoli a Roma. Cari cittadini di Roma, quanto pagate d'affitto voi, cittadini di Roma? Perché, si racconta sul giornale, in prima pagina, che, allora, il progetto è questo. Roma vuole fare un po' di soldi vendendo il patrimonio. Però nel fare questo hanno fatto sapere quanto pagano d'affitto coloro che hanno le locazioni del patrimonio comunale. Ci sono delle robe incredibili. Casa a 20 euro al mese con vista sul cupolone, 20 euro al mese d'affitto. Patricia Tagliaferri, pagina 3 del giornale, gli appartamenti del comune assegnati a prezzi stracciati. Ci sono tutti gli appartamenti in via Baccina, 81 metri quadri, 137 euro al mese d'affitto. Via Belsiana, 23 metri quadri, 53 euro al mese. Ma come 53 euro al mese? Ma ci sono affitti tutti elencati a 53 euro al mese, 70 euro al mese. E quindi il giornale si chiede, invece di vendere questo patrimonio per fare soldi, intanto se si aggiornassero i metodi arcaici per la determinazione delle rendite catastali e forse si metterebbe più a reddito i propri beni, come del Comune di Roma, come immagino degli altri comuni. Comunque chiederemo questo anche all'assessore Alessandra Cattoi, che sarà nostra ospite per La Verità, per parlare del tema della prostituzione all'euro, ma siccome l'assessore Cattoi è assessore al patrimonio, ci dirà qualcosa anche di questa vicenda. Libero anche Affittopoli, casa al Colosseo a 45 euro. Vabbè, è aumentata, dai, non 20 euro al mese, 45 euro al mese d'affitto. Beh, dai, c'è stato un rincaro. Allora, ci sono anche questi casi. La cronaca però impone oggi a tutti i giornali di parlare della storia di questa vedova di Bologna. Il marito è morto 19 anni fa, congelarono gli embrioni e ora è stato dato il via libera all'impianto di embrioni nella donna, che quindi è incinta e avrà un figlio dal marito che non c'è più, che è morto 20 anni fa. I nostri amici Marione Adinolfi sulla Croce Quotidiano titola così: a Bologna i giudici si fanno Dio. Nel 96 una coppia ha prodotto 8 embrioni e li ha crioconservati. Nel 2010 l'uomo è morto. Oggi i magistrati ordinano che si proceda d'urgenza all'impianto nell'utero di una cinquantenne. Allora, il tema in realtà c'è. Caterina Pasolini su Repubblica intervista questa donna che dice: ancora non ci credo, dopo sentenze che mi avevano dato torto, dopo delusioni, porte sbattute in faccia, finalmente ha riconosciuti quello che per me era ovvio. Quegli embrioni congelati 19 anni fa, frutto di fecondazione assistita, di gameti miei e di mio marito, sono nostri e quindi ho il diritto di impiantarli, come dice la legge 40, per diventare anche io una mamma. La decisione arriva tardi? Io avevo chiesto l'impianto 3 anni fa. Se mi avessero dato subito il via libera nell'ospedale, tutto fosse andato bene, oggi il piccolino avrebbe già 3 anni. Con mio marito ci siamo incontrati che io avevo 30 anni e lui 60. Io facevo come oggi la commerciante. Lui era appena andato in pensione lasciando le aule dove per anni aveva insegnato con passione materie classiche. Poi abbiamo fatto la fecondazione, lui abbiamo smesso perché dal 2000 si è ammalato, abbiamo cominciato a rimandare, poi è morto, ma io ora ho diritto ai miei embrioni e ai miei figli. Anche sul Giorno, a pagina 3, viene intervistata, dice: ora ho la sentenza della magistratura, devo decidere, è stata riconosciuta la paternità di un figlio che entrambi volevamo. Il tema c'è, come il tema c'è dalla Francia arriva questa storia abbastanza incredibile. Spesso sono stati fatti anche dei film, no? I neonati scambiati in culla. I neonati scambiati in culla. In Francia è successo. È arrivato un risarcimento di 2 milioni di euro a due famiglie perché sono state scambiate in culla i loro neonati. Ora, quando hanno 20 anni i figli, è stata ammessa questa responsabilità da parte dell'ospedale. Però c'è anche un altro tema interessante. Queste persone, questi ragazzi, hanno deciso: restiamo con le famiglie che ci hanno cresciuto. Cioè, non vogliamo ripristinare un legame biologico, se non di amicizia, ma rimaniamo figli di chi ci ha cresciuto invece di essere figli di sangue. E quindi decidiamo di rimanere nelle famiglie che per 20 anni ci hanno cresciuti come i loro figli biologici. Beh, interessante anche questa lettura. Ci sono tante altre notizie di cronaca. Una riguarda il calcio, la Serie A. La Serie A diventa cinese, è ormai ufficiale. Infront, cioè l'azienda, la società che ha i diritti di tutte le immagini di calcio, è stata acquistata per 1 miliardo di euro dal gruppo Wanda Group, appartenente a un imprenditore cinese. Si tratta di Wang Jianlin. Oggi Repubblica dedica 2 pagine, fa anche un bel ritratto con Giampaolo Visetti. Chi è questo capitalista di Stato che ama Marx e Picasso e si è comprato di fatto tutta la Serie A? Dal business al cemento ha conquistato anche lo sport. Il suo fondo è anche il colosso immobiliare di Pechino, è già nell'Atletico Madrid. Magari ci ridanno Torres che fa gol al Milan. No, scherzavo. Comunque i cinesi si sono comprati anche la Serie A. Eccolo qui. Vabbè, ma mentre ci segnalano via sms giustamente che Varoufakis è un po' Checco Zalone, un po' Bruce Willis, un po' Aldo di Aldo Giovanni Giacomo, ma anche un po' Franco Trentalancia, noto attore porno, e quindi magari per questo è un'icona del sesso per le tedesche, siamo al momento della carta costa. L'articolo più inutile scovato sui giornali, ecco, vedete il racconto della politica. Una pagina di Andrea Garibaldi che intervista Pier Ferdinando Casini. Una pagina intera di un'intervista a Pier Ferdinando Casini. Guarda, mi faccio togliere le parole di bocca da il mitico Massimo Bordin. Perché, come dice un simpatico concorrente, la carta costa. 24 mattino. Ben ritrovati da Alessandro Milan alle 8:19 minuti, ce ne siamo occupati 3 giorni fa, ricordate il caso Gettonopoli, così ribattezzate le 1133 sedute fatte nelle commissioni consigliari, 6 commissioni di Agrigento, 1133 sedute ora al vaglio della Guardia di Finanza, costata ai contribuenti 300.000 euro. Ma questa pare una storia già vecchia, poi peraltro abbiamo detto che, come raccontava Repubblica, anche in altri comuni c'è questo ritmo e questo utilizzo un po' forse spregiudicato dal punto di vista dell'uso del gettone di queste commissioni. Ma la situazione è che ad Agrigento è caduto il Consiglio Comunale, è decaduto, si sono dimessi praticamente tutti. Si voterà, ma questo era già scontato in primavera perché non c'era più il sindaco. Succede ad Agrigento che è candidato anche un leghista, pensate, da Treviso ad Agrigento, vive lì da qualche mese per cercare di diventare sindaco. Insomma, il racconto della politica a volte un po' bizzarro e pazzo, sembra quasi un romanzo bizzarro certamente, oggi ci porta a cercare di capire che sta succedendo ad Agrigento. E voglio salutare intanto il presidente decaduto del Consiglio Comunale, Carmelo Settembrino, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei, dottore. Allora, intanto saluto anche il leghista d'Agrigento, veramente questa era l'ultima che pensavamo di vedere, l'onorevole Marco Marcolin, buongiorno, della Lega Nord. Buongiorno a lei, buongiorno ai radioascoltatori. Peraltro già sindaco lei è stato, dove è stato? Leggevo oggi a Cornuda, è giusto? Esatto. Oggi il Fatto Quotidiano le dedica una pagina, se non lo sa, il leghista all'assalto della Agrigento caduta su Gettonopoli. Mi obbliga a comprare il giornale allora. il fatto Quotidiano, lo legga perché c'è una pagina su di lei. Senta Settembrino, siete caduti per Gettonopoli? Adesso lei mi dirà di no, ma in realtà sì, siete caduti per questo. No, noi non siamo caduti, ma ci siamo dimessi. Beh, è diverso, leggermente diverso. E lo abbiamo fatto coscienti di quello che stavamo facendo, perché siamo a 2 mesi dalle elezioni, una strumentalizzazione politica in atto, un attacco mediatico feroce, proprio per far calmare un po' la situazione, la tensione che si vive e si taglia con il coltello, abbiamo deciso unanimemente di staccare la spina a questo punto. Ecco, ma perché attacco mediatico? Scusi, queste 1133 sedute, c'è la procura più che altro che indaga. Perfetto, grazie al caso Agrigento si scopre che quasi in tantissimi comuni d'Italia ci hanno abbondantemente superato, per non andare da Catania a Palermo, a Messina. È vero, in alcuni casi sì, però guardi che quando ce ne siamo occupati la scorsa, 3 giorni fa, ci hanno chiamato tantissimi amministratori locali a dire, dai comuni più disparati, a dire io il gettone lo do in beneficenza, noi facciamo una commissione al mese. Come tutti lo fanno? Mi scusi, io leggo alcune cifre. Facevano sempre l'esempio tra Agrigento e Trento. Agrigento quasi 300.000 euro, non capisco come mai Trento, che è una città bellissima, con pochissime commissioni, per il Consiglio Comunale, e circoscrizione 400.000 euro. Cioè, allora c'è qualcosa che evidentemente non funziona. Io ho letto 1133 sedute ad Agrigento, a Trento ne hanno fatte forse 50, 60 in un anno. Perfetto, ma come mai hanno speso 400.000 euro? Per le commissioni? Ma questa cifra... Leggo la determina. Mannaggia, e che gettone c'hanno a Trento? 1000 euro a seduta? No, glielo dico subito, guardi. Allora, determinazione dirigenziale 9-1-2014, integrazione impegni di spesa pari a complessivi 341.000 euro, sì, più 96.000 euro, un'altra determinazione per le circoscrizioni, sono 400.000 euro. Quindi voglio dire, ad Agrigento, perché se fa sempre notizia purtroppo Agrigento, sì, e continua a essere quella, 300.000 euro. In altri comuni, Messina, abbiamo saputo ieri 900.000 euro. C'è cose, insomma, c'è l'attacco mediatico su Agrigento. Vabbè, voi avete, sì, deciso di staccare, di staccare la spina, come ha detto lei. Io vorrei capire però da l'onorevole Marcolin, beh, intanto la domanda che le avrà fatto tutti, che ci fa lei ad Agrigento, insomma, da dove nasce questa operazione? Ce la vuoi spiegare? Candidato sindaco, faccio il candidato. Sì, certo, ma non è una cosa normalissima, no? Da dove nasce? L'ha chiamata Salvini? Le ha detto... No, mi ha chiamato Salvini, anzi è nata molto tempo fa, quando con un gruppo di amici così, ma scherzosamente si dice tra una melanzana, prendo anche una melanzana, un'insalata di polpo, magari in mezzo al mare, e si diceva appunto, perché non vieni tu a fare il sindaco di Agrigento? Quindi lei la conosceva già Agrigento? Ma in minima parte, conoscere è una parola grande, la sto conoscendo, quindi ho questo vantaggio di non conoscerla e quindi di non avere interessi specifici con nessuno. Perché lei si è trasferito lì, cioè lei sta in Parlamento e poi sta lì? Io sono in Parlamento e fine settimana regolarmente vado giù ad Agrigento come normale lavoratore pendolare. Sì. E che ha scoperto di Agrigento che la porta a pensare che potrebbe farne il sindaco? Ma inizialmente magari poteva essere qualcosa, uno scherzo più che sia, no? Loro dicono babbiare o altri termini nel nell'idioma comune, però voglio dire, piano piano, sentendo il calore della gente, mi sono convinto che la cosa si poteva fare. Ma che fa lei? Una lista civica? No, si candida come Lega? Attualmente adesso io ho avuto il benestare del movimento, del partito, per cui mi candido con noi, con Salvini, e una lista civica attualmente, vediamo se riusciamo a farne anche una terza. A me piacerebbe coinvolgere i giovani dell'università e fare una lista di giovani universitari. Senta, coinvolgerà anche questi del movimento, com'è che si chiama? Li abbiamo ospitati anche noi. Noi siamo diversi, noi non siamo così, quelli che hanno protestato contro questa gettonopoli? Ma chi ha buona volontà di fare è il benvenuto, chi ha voglia solo di protestare continuerà a protestare. Ho visto anche a Palermo domenica, forse... qualche ortaggio è volato. Senta un po', ma come l'accolgono? Cioè, la Lega ha avuto varie volte parole anche nei confronti dei meridionali, non molto tenere, non gliele rimproverano queste? Non a lei personalmente, magari, ma al partito che rappresenta. Ma sì, le rimproverano, ma guarda, io rispondo semplicemente che non esiste più neanche l'embargo su Cuba da parte degli Stati Uniti, insomma adesso questi stereotipi sono... tendono molto più a dividere, a far sì che ci siano delle differenze che tutto sommato non ci sono, perché guarda, io sono accolto molto bene, anzi un calore forse anche inaspettato. Inaspettato. Sì, ma lo devo dire, un affetto. Ma anche... guarda che i sondaggi dicono, adesso non lo so se lei ne ha, dicono che addirittura può essere il candidato più probabilmente vincitore. Cioè, nel senso, non stiamo, almeno leggevo i giornali, poi... giornale online Sicilia H24, quale ha fatto questo sondaggio, ha dato queste cifre. Cioè lei sarebbe in vantaggio in questo momento come sindaco di Palermo? Ci sono solo io. Cioè, di Palermo sono... no, di ma sì, scusi, di Agrigento, di Agrigento, fare anche di Luca Orlando. No, assolutamente. Anche perché lì ci sono molto più problematiche, visto quello che costa quel consiglio comunale, no? Ecco. Ma lei cosa fa? Cioè, vuol fare lì, arrivare a fare il moralizzatore? No, assolutamente, io non devo moralizzare assolutamente nessuno, sono già moralizzati sufficientemente, per cui, anzi, saluto l'amico Settembrino, visto che l'ho conosciuto... c'è tante di quelle cose da fare che sta lì a moralizzare, ci pensano già gli altri. No, questo sì, no. Però se Settembrino mi faccia che voi ve l'aspettavate, cos'è un alieno, un leghista ad Agrigento? Come... No, assolutamente no, noi siamo un popolo molto molto accogliente con tutte queste, ma su questo famoso, non c'è dubbio, accogliamo anche perfino un leghista. Che si possa governare Agrigento solo con venendo ad Agrigento il fine settimana. Agrigento bisogna conoscerla, ha un territorio vastissimo e solo chi sta 24 ore su 24 può capire i veri problemi. Vabbè, della città. Ma magari chi lo sa, se diventasse sindaco magari si dimette dal Parlamento. Per 2000 euro al mese, Ai. Vede che però Settembrino sempre lì a fare i calcoli sui soldi siete. Ma è molto chiaro, un sindaco abituato con l'indennità che hanno i deputati nazionali, arrivare a queste materie che io le leggo, io ho percepito per 8 mesi 7.000 euro all'ordo da togliere il 40%, queste sì. Sono le cifre da scandalo, 2012-2013 480 euro al mese da Presidente queste del Consiglio Comunale dello scandalo rilasciato dal Comune, non sono cifre che invento, ecco. No certo, dico come Presidente del Consiglio Comunale 480 euro al mese. Ascolti, io sono diventato Presidente sì. A settembre, quindi da Consigliere Comunale parlo da Presidente 1.400 euro all'ordo, sempre del 40%, meno di 900 euro. Come Presidente del Consiglio Comunale. Insomma, questi soldi, Marcolin, non valgono lasciare lo scranno da parlamentare, questo glielo dico subito. Vabbè, ci vuole anche un pizzico di pazzia, un po' di avventura. Se dovessi fare i conti sui soldi, sarei ancora fare il mio primo lavoro, non l'ho mai fatto, mi sono sempre impegnato e diciamo così che la vita mi ha dato anche la fortuna di poter esprimere. Però mi dica la verità, ma perché lei ha detto da amici è nato come uno scherzo, ma chi davvero le ha detto vieni qui? Cioè lei conosceva persone ad Agrigento, politici, amici privati? No, guardi, esclusivamente persone lontane dalla politica. E quindi mi hanno detto dai vieni qua, dai, che non è che abbiano insistito, perché chiaramente non è che con l'insistenza si possa ottenere, diciamo mi hanno fatto conoscere questa realtà agrigentina, non certo le commissioni, non certo i costi del consiglio, mi ha fatto conoscere ciò che si può fare, come ci si può impegnare, quindi c'è un qualcosa da fare e poi è nato, poi rispettoso chiaramente, perché confrontato col mio collega Angelo Attaguile, che è responsabile regionale appunto della Lega, perché c'è già un leghista Lega. Un leghista di Catania. Mi sono confrontato con lui, insomma, ha deciso di fare questa avventura. Quando è che si vota? È diventato anche un progetto politico. Quando è che si vota ad Agrigento? A maggio, non sappiamo ancora la data, le date precise, comunque a maggio. Quindi lei farà. Ma Settembrino, invece le chiedo questo: voi vi ricandiderete, cioè lei, altre persone, pensate di essere ancora presentabili dopo quello che è successo? Settembrino. Nessun tipo di contestazione. E fin quando non arriva quella per quanto mi riguarda. Potrei anche pensarci, anche se al momento sono molto ma molto deluso dell'atteggiamento di un poco di tutta la politica sia nazionale che regionale. Siamo gli unici che siamo sul campo a combattere tutti i giorni, siamo stati massacrati e lasciati da soli. Questa vicenda delle commissioni d'Agrigento come nasce? Cioè c'è qualcuno che non si sa dove, perché si è svegliato e ha detto oggi mettiamo sotto attacco Agrigento? Glielo dico subito, sì. Premesso dico che se va a votare a maggio, quindi gruppi politici che sono stati sempre fuori dal governo della città, giustamente non riuscendo con altri partiti, si sono riciclate con 5 Stelle e altri movimenti, quindi cercano in tutti i modi. Premesso che i dati li pubblichiamo noi, quindi il Comune di Agrigento, da quando sono diventato Presidente, abbiamo approvato una norma nel regolamento che pubblichiamo tutto. E ci mancherebbe. Ecco, un sito locale, una pagina del giornale La Sicilia, per essere sincere, ha ripubblicato tutto. Dicendo è uno scandalo. Ha preso spunto, ha chiesto a un deputato del 5 Stelle di chiedere fare un'interpellanza. Gliel'abbiamo dati immediatamente. E quindi lei dice: vi siete, come dire, consegnati mani e piedi a una gogna mediatica? Lei dice: era nostro dovere farlo, l'abbiamo fatto immediatamente perché siamo nella pienezza della legge. Quindi, nessun reato finora. finora accertato. No, finora, beh, cioè, c'è la procura, la guardia di finanza hanno acquisito tutte le sedute. Che significa? Stanno valutando. Stanno valutando. Sa qual è lo scandalo, dottor Milan? Perché mettono commissione fantasma, che non esiste la parola fantasma, perché le commissioni sono tutte, ma no, è chiaro, sono squadre verbali. Quindi dire commissione fantasma o commissione lì ci sono poi 50 euro quando in altre città sono 190. Lei dice se la sono prese con Agrigento. Ma guardi, però Repubblica ha raccontato, noi l'abbiamo fatto, le altre città, a Bari per esempio, se si mantiene il ritmo di questi mesi, vi supereranno, arriveranno a 2000 sedute. Ma succede anche a Catania, all'anno. Succede a Palermo, succede a Bari. Vabbè. Infatti le comuni più piccole già ci hanno superato abbondantemente. Vabbè, si vede che Agrigento era un buon boccone da mandare alla stampa. Allora no, però facciamo così, io mi devo fermare per il momento, perché devo andare in pubblicità. Ringrazio sia Carmelo Settembrino, ex presidente del Consiglio Comunale di Agrigento, e l'onorevole Marco Marcolin della Lega, candidato sindaco ad Agrigento. Io tutte le volte lo dico con enfasi perché non ci credo ancora, ma insomma in bocca al lupo ovviamente. Ma torneremo su questa vicenda perché, come sapete, periodicamente riaffrontiamo le tematiche. Intanto però andiamo in pubblicità, poi avremo ospite l'assessore di Roma, assessore al patrimonio, Alessandra Cattoi, per parlare intanto del tema di cui si dibatte a Roma da giorni, insomma questo zoning, questa zona per la prostituzione all'Eur. Si farà o non si farà? 24 mattino. Eccoci qui, sono le 8:40 minuti. Allora, noi ieri ne avevamo parlato dalle 8:15 alle 9 a capire di cosa succederà a Roma su questo progetto, questa idea di fare lo zoning, cioè il nono municipio in particolare si presterebbe a questa sperimentazione, come è stata fatta a Mestre, di in qualche modo tollerare la prostituzione in alcune aree adibite, magari lontano dai centri abitati. È da giorni una polemica dietro l'altra per questa iniziativa che è allo studio. Allora ne vogliamo parlare con un assessore di Roma, l'assessore al patrimonio, alle politiche europee, alla comunicazione, alle pari opportunità. Si tratta di Alessandra Cattoi, che saluto, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Eccoci qua. Allora, si farà o no? Perché il progetto c'è, ma le polemiche sono tantissime. Le chiedo intanto una previsione, si farà questa cosa oppure no? Ma intanto appunto parliamo di un progetto e di un progetto sperimentale che è un progetto molto serio e va, proprio come diceva lei, sulla scia dell'esperienza che si è dimostrata un'esperienza positiva, che è quella di Mestre. Se si farà bisogna aspettare ancora qualche tempo, perché una volta presentato il progetto bisogna verificarne la fattibilità, cioè non è un progetto che il nono municipio di Roma può mettere in campo da solo. Certo, ma è una fattibilità politica, una fattibilità proprio pratica, cioè perché il sindaco ha già detto e voi avete detto lo vogliamo fare, vorremmo farlo. La giunta ieri sera proprio si è riunita per fare un approfondimento, perché non tutti gli assessori evidentemente erano a conoscenza del progetto del presidente del nono municipio Santoro, e abbiamo fatto un approfondimento e devo dire che la giunta non si è detta assolutamente contraria. Quello che si è detto è forse di invertire l'ordine degli interventi, nel senso che prima di tutto la giunta si è detta che è necessario fare degli interventi sociali, nel senso finanziare quei progetti che sono volti al contrasto della prostituzione. Sì. Tra l'altro Roma ha una lunga tradizione in questo senso, per molti anni è stata all'avanguardia perché aveva un progetto proprio della capitale con delle unità di strada. Ma questo è il progetto dello zoning. Ieri avevamo Bettin che lo ha messo in campo a Mestre. Sì. E non è semplicemente si fa il quartiere del sesso, ma si mettono insieme tutte delle politiche sociali di rapporto con chi si prostituisce, per cercare di tirarle via anche dal racket, se sono nel racket, o comunque dare un'altra opportunità. Cioè è una cosa complessa, però esatto. le polemiche lei le ha lette, cioè il prefetto ha detto sarebbe un favoreggiamento della prostituzione. Sono parole pesantissime. Certo, poi bisognerebbe capire perché il prefetto di Mestre invece ha collaborato alla realizzazione del progetto a Mestre, mettendo a disposizione le proprie volanti le proprie forze dell'ordine a collaborare con il comune per realizzare questo progetto, perché è chiaro, noi la parte dell'amministrazione dell'ente locale può svolgere fondamentalmente quell'aspetto di assistenza sociale, mentre il controllo del territorio con le forze dell'ordine è chiaro che non lo si può fare senza nel senso, sarebbe auspicabile avere una seria collaborazione, anche perché le forze dell'ordine oggi non quando ci sarà, se ci sarà lo zoning, ce l'hanno già questo compito di presidiare il territorio, però il presidente Santoro ci racconta, e questo chiunque abita nelle zone dell'euro e non solo dell'euro sa, che per esempio, faccio un esempio, un commerciante la mattina quando si alza va, apre il suo negozio, la prima cosa che fa, prende la scopa, la paletta e spazza tutto quello che è il resto di quanto è accaduto la notte. Ecco, allora in questo caso io direi, prima, io personalmente penso che prima di tutto serve l'investimento anche economico per fare funzionare dei servizi che siano di contrasto al fenomeno. Dopodiché teniamo conto di queste persone che vivono in quartieri dove c'è un problema di degrado e un problema di sicurezza. Sì, il problema è chiedersi se sia possibile fare ciò con un ostracismo del prefetto molto palese ed evidente. Appunto, lei ha detto a Mestre c'è stata collaborazione. Qui mi sembra al momento che la collaborazione, almeno stando alle dichiarazioni, è tutt'altro avvenire. Senta, le chiedo questo: alcune deputate del PD hanno chiesto e scritto al sindaco Marino a dire non farlo. So che oggi il PD si riunirà alle 14 per parlare di questo. Vi aspettate solidarietà dal partito? Ma io credo che il partito non ha una posizione univoca come su tante cose, ma comunque questo, il tema è chiaro, si presta ad affrontarlo da diversi punti di vista. Se io mi estraneo dal mio ruolo di amministratrice e mi metto nella condizione di pensare dal punto di vista delle donne, è chiaro che dico no, non è possibile relegare il fenomeno della prostituzione, che non è solo delle donne, perché a Roma è molto diffuso anche quello dei minori purtroppo, e relegarla in una zona e lasciare che poi lì accada tutto quello che accade. Quello però è reato, diciamo, dei minori, è una cosa che andrebbe contrastata con le manette, voglio dire, di chi va appunto, con i minori. Allora se noi sappiamo, e lo sappiamo, che negli ultimi anni il fenomeno dei minori prostituiti è aumentato del 400% a Roma, allora quello che dice lei è giustissimo, però bisogna farlo, non si può dire no, non si può fare niente, perché a Roma non si può fare niente, c'è qualcuno che il controllo lo deve esercitare e le manette le deve mettere a chi le deve mettere. Questo sì, ma voi come pensate di convincere il prefetto? Perché mi sembra la persona più restia a questo tipo di progetto, cioè è in programma, non so, un incontro tra Marino e Pecoraro? No, questo non è in programma, però noi stiamo lavorando, ed è molto importante, anche con le associazioni che a Roma si occupano di questi temi, e loro stesse ci hanno chiesto di aprire un tavolo con le forze dell'ordine e per arrivare a un protocollo d'intesa, in modo che siano rappresentati tutti, quindi la prefettura, il comune e le associazioni, perché è chiaro che loro sono a volte ancora più presenti nei singoli quartieri a fare delle attività di vicinanza, di prossimità, che a volte invece le istituzioni non riescono a fare. Quindi può darsi che questa potrebbe essere la strada giusta, mettere tutto intorno a un tavolo. Se non sarà il prefetto e il sindaco, saranno i rappresentanti della prefettura, i rappresentanti del sindaco. Che sappiamo che i rapporti anche personali per altre vicende sono stati, anche almeno leggevo sui giornali, tra Marino e Pecoraro, forse non sono proprio idilliaci. Però assessore Cattoi, le chiedo questo, guardi un attimo veramente nella sfera di cristallo, lei è ottimista e pensa che si farà, o saranno troppo forti le resistenze a questo progetto? Ma io auspico che qualcosa si faccia, perché la cosa peggiore che è il risultato delle polemiche e di un dibattito che poi risulterà un dibattito sterile è non fare nulla. Allora, poi, come spesso avviene in Italia. Facciamo un progetto diverso, facciamolo, studiamolo, non è che il progetto di Santoro sia il progetto migliore del mondo, noi abbiamo un esempio, è quello di Mestre, possiamo dire che ha funzionato relativamente bene rispetto alla realtà italiana, poi ci sono realtà diverse diverse in Europa che sono un po' più lontane. Sai cosa ci diceva ieri Mario Adinolfi? Qui dice, ma insomma, e glielo chiedo a lei da donna, basta questa idea che ci siano delle persone libere volontariamente di prostituirsi, cioè andate a chiedere a una donna se è felice, se è contenta di prostituirsi, e quindi per lui andrebbe messo proprio il reato di prostituzione. Per lei una donna può liberamente scegliere di prostituirsi? Questo sinceramente il reato io non sono convinta che sia la strada giusta, penso che ci sono varie modalità di prostituzione, c'è la prostituzione di strada, c'è quella che si fa negli appartamenti, ecco, a normare io credo che sia una esigenza molto forte dopo 60 anni dalla legge Merlin, che sicuramente è stata una legge eccezionale, però dopo 60 anni qualunque legge bisogna farla. Un po' revista. Io sono d'accordo con lei sul fatto che qualcosa si faccia, cioè in Italia di questo tema come di altri si dibatte da decenni e poi ci sono quei momenti in cui è tutto sempre sulle prime pagine dei giornali, poi scompare e non si fa nulla, o meglio si fanno poche cose. Però assessore, torneremo a parlare, le devo fare quest'ultima domanda, noi l'abbiamo chiamata su questo tema, ma se oggi vedrà i giornali, visto che lei è assessore al patrimonio, è scoppiata almeno sul Giornale, su Libero, queste accuse di rischio di ritorno di Affittopoli a Roma, cioè il comune di Roma vuole vendere parte del patrimonio pubblico, questo ce lo conferma, per far fronte all'enorme debito? A dire la verità vuole vendere un numero elevato di immobili che sono fondamentalmente appartamenti e negozi, non sono immobili necessari al funzionamento dell'amministrazione, sì, perché non li considera strategici. Certo. Perché un ente locale deve possedere e gestire con enormi costi dei condomini? Quanti soldi pensate di ricavare da questa vendita, come stime? Alla fine del processo dovremmo ricavare circa 300 milioni di euro. 300 milioni, perché i giornali raccontano che ci sono ancora tantissimi affitti che non sono ai canoni di mercato, cioè appartamenti comunali a 50 euro al mese, magari in pieno centro a Roma. Non basterebbe rivedere le rendite catastali e renderle a prezzi di mercato per guadagnare molto e tenersi il patrimonio? Ma è assolutamente così ed è uno scandalo e sono dei privilegi che non sono più tollerabili. Poi questa è una scelta, uno può investire molto per cercare di gestire un patrimonio che è molto costoso da gestire, pensate che il comune deve partecipare all'assemblea di condominio, di 600 condomini, ma voi vi immaginate gli impiegati del comune che partecipano all'assemblea del condominio? Quindi dice, come scelta politica, meglio venderli e fare cassa invece. Meglio venderli e fare per la città quelle opere che servono alla città, fare le scuole, aggiustare le scuole, rifare edifici pubblici. Che sono competenti, sarebbe più complicato rendere invece guadagnare di più, cioè alzare gli affitti a prezzi di mercato? Sarebbe più difficile. È un'operazione complicata perché il Comune di Roma non ha storicamente mai fatto questa cosa. Dopodiché bisogna chiedersi se è utile, se è più utile a incassare del denaro e investirlo in opere pubbliche, o se è utile investire nella formazione, nella gestione di un patrimonio e possedere degli appartamenti e dei negozi. Ma non è una missione strategica dell'ente locale. Guardate che Roma Capitale ha un patrimonio di 64.000 beni, sì. se vende 600 appartamenti non succede, il patrimonio è praticamente intaccato. Va bene, comunque assessore, magari torneremo su questo tema perché è un tema molto molto più ampio, così anche quello dello zoning. Vediamo. Io sono un po' scettico, la sensazione che in Italia le cose veramente si parli, ma poi le resistenze vincono su tutto. Comunque in bocca al lupo, vedremo. Grazie Alessandra Cattoi, assessore al patrimonio e anche ad altro, pari opportunità, politiche europee e comunicazione al Comune di Roma. Andiamo al traffico. 24 mattino. Noi abbiamo parlato fino adesso di prostituzione, ma siamo al momento conclusivo, quello in cui chiamiamo un ascoltatore o un'ascoltatrice che ci scrive, ci segue dall'estero e ci scrive a 24 mattino e radio24.it. Vado da Nicolò, che saluto, buongiorno Nicolò. Ciao Alessandro da Stoccolma. Come da va? Stoccolma, che bello, infatti uno di quei paesi dove, Nicolò, non far finta di non sapere del tema di prostituzione, se ne parla, perché lì mi pare che sono abbastanza duri con i clienti soprattutto, è vera questa cosa in Svezia? Sì, hanno una considerazione della donna molto alta, soprattutto sulle parità tra i sessi, anche sia nell'università sia nel lavoro. abbiamo il parental living, cioè si può stare a casa sia come padre sia come madre. Certo, io infatti quando sono stato a Stoccolma una volta ho visto tantissimi padri in giro con le carrozzine, ma in pieno giorno, perché molti prendono il congedo parentale. Il classico la domenica sono i padri al parco giochi e le madri al caffè con le amiche. Vabbè, è un gran classico, tutte a Stoccolma dopo aver sentito questa frase. Nicolò, da che ci fai tu a Stoccolma? Io faccio un dottorato di ricerca qua dopo aver fatto una laurea a Milano e dunque adesso sono venuto qua a fare meccanica dei fluidi. Quindi ingegneria, immagino? Ingegneria meccanica, sì, siamo in quella branca. Sì. E come mai a Stoccolma? Sono così avanti? Avanti, ma secondo me era molto importante fare un dottorato all'estero dopo un'esperienza italiana e dunque ho cercato un dottorato all'estero. In Italia abbiamo parlato molto del Politecnico e dell'uso dell'inglese. Tu sei laureato al Politecnico a Milano? Sì, il Politecnico di Milano. Immagino che in inglese adesso tu studi in inglese a Stoccolma. Io addirittura ho imparato poco svedese, perché qui l'inglese è così diffuso che non si è portati a imparare la lingua locale. Dimmi la parola di svedese che sai meglio. Facci un saluto, dici qualcosa, una frase in svedese. Puoi dire quello che vuoi, tanto. Hej alla, jag heter Nicolò, och jag lyssnar på 24 morgon i Stockholm. Vabbè, ho capito che sei Nicolò da Stoccolma, questo. Esatto, e ascolto 24 mattina. Ma è fantastica questa cosa. Allora Nicolò, noi ti mandiamo un abbraccio. Un abbraccione. Hai visto Sanremo da Stoccolma? Assolutamente no. Ma chi se ne frega poi, infatti. Grazie Nicolò. Non danno Sanremo a Stoccolma in TV. Com'è possibile questa cosa? Comunque, voi scriveteci come state facendo in tantissimi, se ci seguite dall'estero, 24 mattino e radio24.it, e noi vi chiameremo in onda. Ringrazio Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fusconi, Alessandro Longoni in redazione e il nostro Carmelo Lauricella in regia. L'appuntamento è rinnovato a domattina 6:30. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica.